America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. And what do you say finally to the Italian people they must do in order to restore Italy's greatness? Come back to be dreamers, because in the last period we lost a dream and we make nightmares. Matteo Renzi lo scorso settembre da Charlie Rose, lo scorso 26 settembre, quando venne in America. Il Presidente del Consiglio sta per tornare in America il 17 di aprile, visita molto importante, visita storica, perché sarà la prima volta che il Presidente del Consiglio andrà a Washington per un incontro alla Casa Bianca con Barack Obama. C'è da chiedersi in che lingua parleranno. Ci sono molte tematiche, naturalmente, che saranno oggetto di discussione, di politica interna, di politica estera, però questo aspetto della lingua mi interessa molto. Perché? Perché ci sono stati attacchi in Italia su social network che prendevano in giro Renzi, che gli dicevano che il suo inglese era maccheronico, che non riusciva a farsi capire, e così via, e così via. Ebbene, io sono qui a dirvi che non è vero che l'inglese di Renzi è molto buono, che già lo scorso settembre, parlando con Charlie Rose, è riuscito a comunicare. Farà errori, non è perfetto, ci saranno delle imprecisioni, ma è molto meglio uno che viene e si butta e parla in inglese piuttosto che il politico tradizionale italiano che arriva con un discorso in italiano che poi viene tradotto da un traduttore. Ma voi potrete dire: ma tu chi sei per dire che lui parla bene l'inglese? Allora vi do la notizia di oggi, e cioè che il New York Times ha fatto un'intervista con il nostro Presidente del Consiglio, l'ha pubblicata questa mattina, ha dato un quadro tutto tondo di quello che sta capitando in Italia, e l'autore dell'intervista, il corrispondente da Roma, Jim Yardley, ha dato buoni voti all'inglese di Renzi, e riferisce esattamente, dice: ci sono state molte prese in giro sull'inglese del Presidente del Consiglio, in realtà per quel che mi sembra deve essere migliorato rapidamente negli ultimi mesi. Ma cosa dice questo articolo? Vi dicevo, un articolo tutto tondo. Ci sono delle critiche, riprende critiche per esempio di Renato Brunetta, il quale dice che Renzi sta distruggendo i controlli, i contrappesi, e porta con sé una deriva autoritaria. Ci sono critiche di Serena Sorrentino, sindacalista della CGIL, la quale dice che Renzi rappresenta gli interessi degli imprenditori e delle aziende e non quelli dei lavoratori. C'è anche un commento invece più favorevole di una persona che ha lavorato con Renzi, quindi è ovvio che esprima un giudizio, diciamo, favorevole al Presidente del Consiglio, Roberto Dalimonte, politologo, editorialista del Sole 24 Ore, il quale in questo articolo New York Times ha detto: l'Italia può fare o rompere l'Unione Europea, ha un ruolo con Renzi, e guardando all'Italia da Berlino, Renzi è l'unico leader di cui la Merkel può fidarsi. Ho proprio con me i microfoni di America 24 per discutere di questo viaggio americano di Renzi e di riforme, proprio Roberto Dalimonte. Buongiorno Roberto. Buongiorno Mario. Buongiorno. Eccoci. Roberto, naturalmente siamo colleghi, quindi ci diamo del tu. Roberto Dalimonte è professore di scienze politiche alla LUIS e ha lavorato, come dicevo, con Renzi. Allora, la prima domanda, scusami, ma come mai secondo te c'è stato questo accanimento sull'inglese di Renzi? Beh, perché molti non amano Renzi e quindi utilizzano anche questo argomento falso per criticarlo. Veniamo all'altro punto. È vero che Renzi rappresenta gli imprenditori e le aziende e che tradisce i lavoratori, che cambia l'impostazione del PD? Cioè, hai lavorato con lui. C'è una motivazione per Renzi che è per l'Italia, per i lavoratori. Come la vedi? Come la leggi questa dichiarazione? Come la leggono gli americani soprattutto? Beh, senti, io non mi sorprende questa dichiarazione, perché conoscendo un pochino il mondo del sindacalismo italiano, soprattutto quello CGIL FIRM, non c'è da sorprendersi di fronte al fatto che Renzi, che vuole cambiare, incontra delle resistenze in questo mondo. Renzi vuole modificare una situazione del mercato del lavoro che è incessata, vuole rendere il mercato del lavoro più flessibile, superare questa dicotomia tra chi è super protetto e chi non ha nessuna garanzia. I sindacati italiani, soprattutto la CGIL e la FIRM, invece stanno dalla parte di coloro che sono protetti, e quindi, ripeto, non mi sorprende, però fa benissimo Renzi a andare avanti cercando di cambiare le cose. L'America è un paese dove i contratti sono at will, no, l'Italia è un paese dove i contratti sono per la vita, e quindi c'è un abisso. Che valutazione dai dei tempi di queste riforme? Perché questo preoccupa l'America. Fare le riforme in Italia è una cosa molto difficile, molto complicata, anche perché non dimentichiamoci che Renzi non ha vinto un'elezione. Questo vuol dire che non è riuscito a portare in Parlamento uomini e donne scelti da lui. Il problema di Renzi oggi è che da una parte controlla il partito, perché ha vinto le primarie nel suo partito, dall'altra parte non controlla completamente i gruppi parlamentari che invece sono stati scelti dalla vecchia guardia e che sono entrati in Parlamento con le elezioni del febbraio 2013. Quindi c'è questa difficoltà. Insieme a questa difficoltà c'è la complessità delle nostre norme legislative, il bicameralismo e così via. Quindi Renzi sta in una situazione molto difficile, però in questo quadro lui è riuscito a portare avanti una riforma elettorale molto importante. Siamo arrivati all'ultimo atto, il 27 aprile il cosiddetto Italicum, la riforma elettorale, dovrebbe essere votata definitivamente dalla Camera. La riforma costituzionale che ci consentirà di superare il bicameralismo paritario è a buon punto, anche se lì i tempi sono più lunghi trattandosi appunto di una riforma costituzionale. Quindi anche su questo terreno delle riforme, delle regole, Renzi ha fatto dei passi avanti molto molto importanti, però tutto questo va portato a compimento, lo vedremo nei prossimi mesi. Ecco, tu conosci l'America perché sei stato spesso qui, insegni in università americane. Qual è secondo te l'impatto che un politico come Renzi, un politico europeo, italiano come Renzi, può avere sull'America e su Obama? Due domande distinte, naturalmente. Ma io credo che Renzi piaccia in America proprio perché non solo è una persona giovane, è una persona che come Obama si è presentata sulla scena politica all'insegna del si può cambiare, possiamo farcela, sta facendo delle cose importanti e quindi l'atteggiamento credo da parte degli Stati Uniti è positivo. Per quello che riguarda l'Europa, tu citavi l'influenza di Renzi sulla politica europea, ecco, qui Renzi ha avuto un suo ruolo insieme ad altri e qui vorrei sottolineare soprattutto il ruolo di Draghi, è stato determinante. Certo, certo. Ecco, ultima cosa, ieri ho parlato proprio dell'importanza di parlare inglese e di incoraggiare i giovani o le persone che lo vogliono imparare a studiarlo, a parlarlo e a buttarsi con coraggio piuttosto che ad avere un atteggiamento di presa in giro. Quanto è importante oggi parlare l'inglese per un giovane che voglia fare carriera, voglia andare avanti? Sì, sì, è fondamentale. È una delle cose che dico, anzi la cosa, prima cosa che io dico agli studenti della mia università, la LUIS qui a Roma, è che loro devono, prima di tutto, devono imparare l'inglese. Cioè, oggi un giovane italiano, europeo, che non conosce bene l'inglese è tagliato fuori. È uno strumento necessario, deve far parte del bagaglio di qualunque giovane europeo oggi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su maria24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Matteo Renzi al New York Times non l'ha detto, però lui si è definito a un certo punto Demolition Man, l'uomo che demolisce le cose vecchie. Dunque, Sting, proprio Demolition Man. Touching the tracks and the train's fast coming. Step to the wind with the engine running. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.